Letture di Radio 24. In Afghanistan, nei giorni scorsi, una donna è stata uccisa dal marito perché colpevole di avergli dato solo figlie femmine. Un caso estremo, ma rappresentativo di molte culture, che tendono sempre di più a privilegiare i figli maschi. Il caso della donna uccisa in Afghanistan dal marito e dalla suocera per avere partorito per la terza volta una bambina invece dell'agognato figlio maschio è agghiacciante, ma non è isolato. I sociologi hanno coniato la parola genocidio per indicare lo sterminio delle bambine da parte di famiglie che preferiscono i figli maschi. L'idea secondo cui una bambina valga meno di un maschio e che, specie in periodi di carestia o di crisi economica, possa essere eliminata ha radici molto antiche. A fronte di costi maggiori di quelli del maschio, specie dove, come avviene in India, ci si aspetta che al momento del matrimonio la moglie sia corredata da un'onerosa dote, si pensa che la bambina porti con sé minori benefici. E tuttavia il genocidio è anche un fenomeno molto moderno. Da quando l'aborto è diventato relativamente sicuro e legale e la diagnosi prenatale permette di conoscere con anticipo il sesso del nascituro, il metodo più diffuso per eliminare le bambine è abortirle. In Cina le bambine sono le grandi vittime delle leggi sul figlio unico. Per ogni 120 o 130 maschi che nascono in Cina, solo 100 sono bambine. Il che significa che milioni di ragazzi cinesi non troveranno mai una moglie cinese. La Cina risponde importando mogli dalla Siberia e perfino dalla poverissima Corea del Nord, ma le conseguenze sociali sono drammatiche. Lo stesso avviene in India. Anche qui milioni di potenziali mogli mancano all'appello. Fin dal 1994 il governo ha adottato una legge intesa a scoraggiare l'uso della diagnosi prenatale per identificare le bambine che poi, a differenza dei maschietti, sono abortite, ma soltanto un centinaio di medici sono stati inquisiti. Alcune sono semplicemente abbandonate per strada. Altre non sono mai denunciate all'anagrafe, ma questo crea per loro una tragica situazione di persone che non esistono, in balia di ogni possibile sfruttamento. Anche nelle modernissime grandi città cinesi, le organizzazioni per i diritti umani fotografano spesso corpicini di bambine buttati nei rifiuti. E in India si va sempre più diffondendo la paradossale pratica di operare bambine piccole con la genitoplastica, la modificazione chirurgica degli apparati genitali da femminili a maschili. Una modifica, evidentemente, solo esteriore e che creerà ogni sorta di problemi alle bambine coinvolte. Avete ascoltato la lettura dell'editoriale di Massimo Introvigne, Quelle bimbe negate sono un orrore moderno. Da Il Giornale del 31 gennaio.